Scegliete il composto che contiene carbonio e ossigeno, ma non contiene né azoto né cloro. Le tre formule sono: numero 1, C10H16O, numero 2, C8H6Cl2O, numero 3, C8H6Cl2O.